24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il truce diplomatico Merkel-Putin-Hollande parla per 5 ore. Vogliamo stabilire la sicurezza in Europa con la Russia, non contro la Russia. Credo che l'uso di più armi non porterà al progresso di cui l'Ucraina ha bisogno. Putin, forte delle vittorie ottenute in battaglia dai separatisti, offre la possibilità di sganciarsi da Washington, sempre più incline a soccorrere militarmente l'Ucraina. Bisogna comunque fare presto perché in Ucraina orientale si continua a morire. Oltre 5.000 finora le vittime e col passare dei giorni si rischia una catastrofe umanitaria. Penso che questa sia una delle ultime possibilità e questo è il motivo per cui abbiamo intrapreso questa iniziativa. Perché se non siamo in grado di raggiungere non un compromesso, ma un accordo di pace e duratura, noi sappiamo perfettamente che scenario si prospetta. Ha un nome, si chiama guerra. Udo Gump, il giornalista tedesco, corrispondente dall'Italia del gruppo della TV tedesca RTL. Ecco, a Minsk tra poco, secondo te, guerra o accordo? Allora, la posizione tedesca e quella europea, si deve fare ogni tentativo per naturalmente evitare. Ecco, però Merkel e Obama dicono di volere la soluzione diplomatica nel loro incontro sulla crisi ucraina, una soluzione diplomatica a tutti i costi. Ma a tutti i costi cosa vuol dire? Tutti i costi credo che non sia una descrizione corretta. In realtà c'è anche quello che ha detto un diplomatico, ovvero molto diplomatico, sempre molto comprensivo con la Russia, il ministro degli esteri Steinmeier in Germania, ha detto: ci sono però anche purtroppo all'orizzonte soluzioni militari, e questo bisogna far capire a Putin che anche l'Europa pacifista, la Merkel, il governo tedesco, capisce che c'è un punto che Putin non può andare avanti. Sì, sembra una partita di poker in un certo senso. Ecco, la Merkel però sembra chiusa un po' in un tunnel tra guerra e sanzioni, cioè si gioca il suo ruolo di leader in Europa in qualche modo. Ma io direi che è la prima volta che Angela Merkel ha veramente assunto il ruolo di leader. Prima si è un po' nascosta dietro agli altri, adesso alla prima volta ha portato ancora Hollande a Mosca, a Washington è andata pure da sola. No, è chiaro che adesso Angela Merkel ha in mano diciamo le carte europee, però non hanno veramente grande valore, perché tu puoi tentare di convincere Putin che se l'Europa e le sue proposte, anche in realtà una divisione dell'Ucraina, non vengono accettate dalla Russia, arriva la carta americana e gli americani hanno molto meno difficoltà a fornire armi. Però è la prima volta che si vede una differenza di strategia fra l'Europa e l'America nei confronti della Russia. Sei d'accordo? È chiaro che qui abbiamo due metodi molto diversi. La Germania e con tutti i paesi europei vuole evitare ad ogni costo una guerra. Gli americani hanno una soglia che dicono: se Putin va oltre e forniamo armi all'Ucraina. Ecco, sembra quasi che all'America un'Europa un po' divisa e un po' indebolita, in contraddizione nei confronti della Russia, non dispiaccia. No, credo che agli Stati Uniti dispiace molto di non avere dalla loro i paesi europei. Certo, l'Europa ha l'interesse di avere la pace con la Russia, però anche l'Europa, e questo credo erano le parole di Steinmeier, non ha nessun interesse di farsi diciamo sopraffare da un atteggiamento assolutamente quasi da imperialismo, da zarismo di 100 anni fa di Putin, perché non dimentichiamo che ci sono altri paesi in Europa che hanno una forte minoranza russa, i paesi baltici, che già protestano contro una linea che loro ritengono, quella della Merkel, troppo debole nei confronti di Putin. Noi continuiamo a dire l'Europa, ma come hai detto bene tu, la Merkel e Hollande, la Mogherini non c'era, cioè l'Europa rappresentata non esiste. Ma sai, dipende anche da quello che in realtà la Mogherini viene vista molto meno come rappresentante della comunità europea, ma come rappresentante della politica italiana. Vabbè, ma invece il suo ruolo però purtroppo lei stessa si è lasciata andare negli ultimi tempi, proprio poco tempo fa, si è lasciata andare a delle considerazioni assolutamente non in linea con i paesi europei. È chiaro, alla fine la politica estera viene fatta da pochi paesi che hanno una politica estera. Insomma, l'Europa, la politica estera non ce l'ha. Ma Merkel e Putin, tra loro parlano russo? Io li ho visti al vertice di Mosca, buongiorno, sì. Di Milano, no? Sì. E quando loro ho sentito loro, io stesso ho parlato con Putin alla fine di questo vertice, sì. Per una o due battute. Putin parla un tedesco perfetto, lui era capo del KGB, del servizio segreto. Ah, quindi parlano tedesco fra di loro? Tutte e due, la Merkel parla un perfetto russo e lui parla un perfetto tedesco. Quindi possono scegliere. Sia russo che tedesco. Possono scegliere. Assolutamente sì, parlano sia russo che tedesco, me l'ha detto anche la Merkel alla fine di questo incontro. Ecco, il problema è che si capiscano però, o in russo o in tedesco. Allora, guarda, il problema è che Putin ha un concetto medievale dei diritti degli altri paesi vicini alla Russia. Lui crede ancora in quella storia delle sfere di influenza. Quando un paese, secondo lui, fa parte della sfera di influenza russa, non ha il diritto di decidere del proprio destino, non ha il diritto, secondo Putin, di aderire alla NATO, non ha il diritto di aderire alla comunità europea. Cioè, voglio dire, Putin è uno che ha una idea e che altri paesi che lui ritiene sotto influenza russa abbiano una specie di sovranità limitata. Però la lezione della storia per la Germania è quella di non essere troppo sicura nei confronti dell'orso russo, perché determinazione e tenacia della Russia nella storia hanno dimostrato di essere davvero tanto, tanto forti. Guarda, secondo me è un punto molto importante che hai detto, perché le sanzioni alla Russia portano evidentemente una grande sofferenza del popolo russo, però noi sappiamo dalla storia della Russia che la Russia, il popolo russo, quando sa soffrire, sa soffrire quando crede che è per bene della Russia. Ora, Putin paga un prezzo altissimo per le sanzioni, perché la sua economia sta letteralmente crollando. A inflazione certo. E altre cose, però rispetto a quello che il popolo russo ha visto anche vissuto nella seconda guerra mondiale, questo è niente. Ecco, alla fine però l'Europa a guida tedesca, perché questo abbiamo detto, sostanzialmente la Merkel ha buttato la maschera, sembra un po' finita in un cul-de-sac. È un destino che si ripete quasi, insomma è una prova molto difficile per la Merkel quella. Ma non direi che la Merkel ha gettato la maschera. In un consesso di paesi che non riescono a mettersi d'accordo, anche se sulla linea rispetto alla Russia tutti i paesi europei, come tu sai, sono d'accordo di cercare ad ogni costo una linea, cioè una soluzione pacifica, nella assenza assoluta lei gioca il ruolo del primo inter pares. Lei prende in mano una situazione dove nessuno pare che sia in grado di parlare al nome dell'Europa, e allora uno lo deve fare, allora lo faccia lei. Insomma, ha buttato la maschera per davvero la Merkel, c'è lei Mario, no? Sì. Adesso è un'Europa a guida tedesca dichiarata. È un'Europa a guida tedesca, vediamo se i due si capiscono, perché poi la domanda vera è quella che facevi tu. Putin e Angela Merkel si capiscono. Aggiungo solo una cosa. Ma l'Occidente capisce davvero che cosa è la Russia? Secondo me no. Forse no. Noi abbiamo degli standard che non sono quelli che sono adottati, diciamo, dal pensiero di Putin, ma in generale del popolo russo. Insomma, non lo capiscono. La capacità di soffrire del popolo russo è stata dimostrata, soprattutto nelle difficoltà. Sì. E poi c'è una contraddizione di sangue e di storia. La Russia è una nazione europea a tutti gli effetti, e la contraddizione che viene fuori rispetto all'inutilità della UE è proprio nell'incapacità di dare un esito politico rispetto a questa struttura. Questo è il tema. Perché l'Europa dov'è? L'irrilevanza appunto della UE. Beh, sai, finché noi usiamo uno strumento della guerra fredda, vediamo come va a finire, oggi a Minsk, e domani ne parleremo. Intanto andiamo a Sanremo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda serata del Festival della Canzone. Siamo in attesa di sapere chi è il primo classificato. Ti piacerebbe sapere chi ha vinto? E io non ve lo dico, leggete i giornali domani. Amici di Sanremo, allegria! Con 24.000 baci, oggi sapremo che l'amore. Buonasera a tutti e benvenuti, amici telespettatori, amici del Teatro Ariston. Benvenuti al 51esimo Festival della Canzone Italiana. Quest'anno ti preannuncia davvero un grandissimo Sanremo, perché la vera protagonista torna ad essere la musica. E ci sei adesso tu. Di solito negli altri anni si ricantava la canzone classificata, eccetera, tra le prime. Quest'anno ve lo scordate? Sono i 5 buoni motivi per cantare. La più votata al primo posto per cantare. Chi non canta in compagnia o è un ladro o una spia. Sì! Ma ne pare il caso? Io non so chi lei sia. Lei sta impedendo anche il nostro lavoro e il lavoro di migliaia di persone che lavorano a questo spettacolo da tanto tempo. Non faccia sciocchezze. No, ma non fa. Io la leggo la lettera. Stasera sarà una serata pazzesca. Sanremo! 65 anni di canzoni di musica sono diventate parte della nostra vita e che resistono nel tempo. Mario Marfucci, dirigente storico della RAI e gestore direttamente o indirettamente di una quindicina di festival di Sanremo. Ecco, qual è la cosa più difficile da fare quando si deve organizzare un festival? È indovinare intanto a chi affidare la direzione artistica, perché dipende tutto da lui. L'editore può, diciamo, supervisionare l'operazione, ma è importante affidarla. Ieri ti è piaciuta? Ieri ti è piaciuta la prima serata? Non moltissimo, devo dire. Perché? Con molta sincerità. Sincerità mi serve. Perché il racconto del festival non ha avuto, diciamo, uno sviluppo. Quando tu ingaggi, per esempio, 3 donne da affiancare al conduttore, poi queste devono avere un ruolo. E lì non l'avevano. Secondo me un ruolo, voglio dire, non emozionante in qualche modo, soprattutto senza carattere. Ma Fucci, cioè, naturalmente organizzando un festival si è sottoposti a pressioni fortissime. Come si resiste? Se si resiste. Beh, no, insomma, chi è abituato allo spettacolo resiste. Ci sono conduttori che resistono benissimo, Baudo, Bonolis, Fazio, voglio dire. Conti, il grande merito che io riconosco a Conti è la tenuta psicofisica della serata. Dopodiché anche Conti, che tiene sotto controllo, lui ha un talento, quello di tenere sotto controllo il ritmo della serata. E c'è riuscito. Ecco, ma quanto è importante la polemica nel festival? Questo qui è un festival che è partito senza polemica. Inciderà sull'ascolto la mancanza di polemica? Io non credo molto, no. Perché il festival si porta sicuramente ancora uno zoccolo duro. E poi dobbiamo considerare lo scompiglio che l'ingresso degli artisti provenienti dai talent hanno portato sul pubblico tradizionale del festival. Beh, c'è un arricchimento, un arricchimento di pubblico. C'è l'arricchimento, secondo me, del pubblico giovane, che indubbiamente è diventato più presente. Che previsione di ascolto fai, Mafucci? Io faccio la previsione di un buon ascolto televisivo. Sì. Il Festival di Sanremo ha successo solo sul risultato d'ascolto? Aiuta moltissimo. Poi dopo, per diciamo il buon nome del festival, chi vince deve essere in sintonia con le scelte artistiche che sono state fatte. Ecco, ma è una spia, è una spia del cambiamento della società o è solo un rito collettivo che non si riesce a rottamare per una ragione misteriosa? Sicuramente certo. Lo è. Io ricordo che il Bassetti, che è stato presidente della regione Lombardia, mi chiamava e mi invitava a pranzo alla fine di ogni festival, perché con me voleva cogliere i segni di cambiamento, se c'erano stati, della manifestazione. Senti, ma il festival più bello me lo racconti, Mafucci? Il festival più bello, secondo me, è quello con Mike, dal mio punto di vista. Sì, certo. Da Mike Buongiorno e Chiambretti, che faceva il diavoletto e scendeva dal soffitto, diciamo. Sì. E brigava con Valeria Marini. E ieri sera qual è la canzone che ti è piaciuta di più? Quella di Chiara. Quella di Chiara? Quella di Chiara. E vincerà, sì, secondo te? No, secondo me non vincerà, ma insomma l'ho trovata più coerente con il personaggio, con la serata, cantata bene. Ma quanto contano le canzoni a Sanremo ancora? Contano molto, Giovanni. Contano molto e sono la vera forza del festival, e bisogna crederci diciamo nella proposta di fondo della serata. Ecco, ma tu come ti spieghi questo fatto che è l'unico evento collettivo irrottamabile, anche in un mondo nel quale diciamo l'ascolto si è frantumato in mille rivoli? Perché rappresenta una situazione che non si riuscirebbe a mettere in piedi ai nostri tempi. No, ma perché dato che tutto è rottamato, il festival resiste, se c'è una ragione profonda, qual è? La ragione profonda è quella di essere entrata nel costume di questo paese. Senti, ama le canzoni. Tra poco sentiremo Caterina Caselli, che è un monumento della canzone, della discografia. Ecco, quanto è stata importante Caterina Caselli per il festival nel suo doppio ruolo di cantante e di manager? Beh, è straordinario, rappresenta la qualità della canzone, l'estro della canzone, i suoi artisti. Sono sempre di qualità. Sì, sì, è proprio una grande proposta di qualità, perché tra i produttori musicali è quella che ha la migliore e la più interessante esperienza internazionale. E oggi come si guadagna con la musica? È molto, appunto, o la grande qualità e il circuito internazionale, oppure il grande tour. Lì si fanno i soldi. 800 24 0024 numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Era molto vivace. A metà del Lino di Mameli io esordivo con il tuo bacio e comora. Caterina Caselli. Ma quando una ragazza sempre sola se ne sta, un bacio sembra la felicità. E io voglio andare a cantare, cioè non ci pensare nemmeno. Ma tu sei troppo piccolo, non puoi andare a cantare. A scuola di canto veniva a casa, prendeva ancora in mano la chitarra e ricominciava a suonare. Mia madre era assolutamente contraria, sempre, non perdeva tempo per dirmi: guarda che tu sbagli, che non devi andare, questo non è un mestiere, non è un lavoro. Tutte queste donne che vanno in giro per la notte così, non va bene. La verità mi fa male, lo so. Caterina l'ho vista la prima volta che cantava, provava Nessuno mi può giudicare, e io dissi: cambia questa ragazza, questa fa la musica che piace a me. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Io facevo la ragazza, diciamo, quella rock nei confronti del pensare più adulto. Quello, devo dire, a rivederlo mi dispiace un po'. E i motivi del successo di Caterina sono anche dovuti alla sua spontaneità, alla sua grande semplicità. Una cosa mi piace, quell'altra no. Caterina mi sembrava una lavandaia e io questo cercavo. come cantavano i carrettieri, come cantavano i muratori mentre davano l'intonaco ai muri, le lavandaie, perché cercavo la verità. Io sono stata fortunata, ho avuto la musica, la passione per la musica che mi ha aiutato molto, e questa passione per la musica io la rivolgo nella mia professione oggi. Quando incontro un talento, io mi innamoro, ma proprio perdo la testa. Luci rosse sulla strada e pallore sul tuo viso, il tuo amore si è riacceso. Caterina Caselli, Caterina, senti, domani nella serata dedicata alle cover, Chiara Gallazzo ha scelto di cantare una tua canzone, Il volto della vita. Che effetto ti fa? Beh, insomma, mi piace. Devo dire che lei per certi versi mi ricorda un po' me. Appunto. sì, ieri l'ho incontrata, mi ha detto, spero che le piaccia, perché poi mi danno del lei questi ragazzi. Ti fa effetto? Ti fa effetto che ti danno del lei? Un po' sì. Ecco, senti, ieri tra i big si è esibita la tua artista Malika con Adesso qui. Sei soddisfatta della prestazione? Molto. Io trovo che lei è veramente... ha avuto la possibilità, sai, di faceva parte del coro di Voci Bianche della Scala, insomma lei, come dice mia madre, porta la voce dove vuole. Ah, bellissimo. No, è veramente, lei è veramente straordinaria, proprio, e poi non è solo una cantante, come si dice, è un interprete. Ma, esatto, la differenza è tanta. C'è una grande differenza. Ma può vincere secondo te? Allora, come spesso dice lei, dice mi danno sempre per vincente, ma non succede mai. È molto simpatico. E poi dice, ma a chi ama la mia musica, dico, non televotatemi, comprate il brano digitale, tanto costa uguale e io vado a casa, sono molto più felice. Senti, tra i giovani ci sarà un'altra tua scoperta, Giovanni Caccamo del 90. Ecco, come si fa ogni anno a essere la leader delle scoperte di giovani? Abbiamo provato a raccontarlo nella piccola presentazione che riassumeva un po' le tue qualità. È molto affettuosa, grazie. No, beh, ma è dovuta, perché sei un mito per tutti. Ecco, dicevo, questa passione nello scoprire, sì, è un fuoco che non si spegne mai. Sì, no, è esattamente così. Mi piace perché ne ho bisogno, capisci? Certo. Cioè, è così come il è talento, la vita per te. Sì, il talento ha bisogno di esprimersi, no? E in qualche modo io mi abbevero quando incontro, cioè è uno scambio continuo fra chi porta, diciamo, freschezza, creatività, eccetera, e io e chi la vede? E chi la vede e la riesce a far uscire? Beh, insomma, sì, è che investe, anche fa scommesse, naturalmente, ovviamente, poi, no? Questo dal punto di vista manageriale, imprenditoriale, certo. Sì, però è molto bello questo, e credo che assomigli più che a un... Cioè, non mi sento una manager, mi sento più un editore, un tale scout vera. Porta ricchezza all'opera dell'autore, questo è un po' il concetto. Ecco, ma aver cantato che marcia in più ti dà rispetto a questo ruolo che ti dai? Beh, guarda, se facciamo adesso, contestualizziamo, diciamo, ci leghiamo al Festival di Sanremo, io ho vissuto tutto ciò che si vive prima di salire su quel palcoscenico, certo. Quindi so quali sono, diciamo così, i timori, no? Cioè, non ci sono la le prima pressioni, volta, perché certo, non hai nulla da perdere, quindi è tutto fantastico, certo, straordinario, eccetera. Poi l'anno successivo invece diventa più problematico, perché cominci, hai qualcosa da difendere, e quindi ci sono i timori, ci sono le paure. Ma serve ancora il festival all'industria discografica? Allora, diciamo che il festival rimane comunque un appuntamento importantissimo per... Tu incontri tutti i media possibili qui, e questo è quindi molto un luogo proprio come se fosse una specie di mercato. Esatto, perché sai, fuori dal Festival di Sanremo ci sono i talent, ovviamente, certo, e poi non c'è altro, non c'è una forza, una capacità così importante per poter arrivare a un pubblico così eterogeneo. Ecco, ma Caterina, per chiudere, ma sistemi per esempio come Spotify, cosa hanno cambiato dal punto di vista dell'essere, di fare impresa musicale? Guarda, per quanto riguarda Spotify, allora io lo uso spessissimo, certo, per lavoro, immagino. È comodissimo, però i produttori che insomma non sono molto soddisfatti dalle revenue che arrivano da Spotify, perché veramente prendiamo pochissimo. E dove si guadagna con la musica ancora, se si guadagna? Allora, tanto si fa un discorso di mercato, cioè l'Italia era il 50% del mercato francese, oggi è un quarto, sì. Quindi 500 milioni nel mercato francese più o meno, certo. E in Italia insomma siamo poco più di 100 milioni, e sì. Questo la dice lunga. Certo. No? Come si guadagna? Si cerca di selezionare molto, certo. e di cercare di produrre per varcare, andare oltre l'Italia. Insomma, cioè, mercato internazionale, se no non si guadagna. È obbligatorio per noi. Senti, noi non abbiamo altro. Altra speranza. Vabbè, sì, ma sì. Tu sei stata un'antesignana alla grande su questa strada. Senti, un'ultimissima cosa, perché siamo in chiusura. Sì. Cosa avrebbe di diverso un Festival di Sanremo con la guida artistica di Caterina Caselli? Forse farebbe poche, non farebbe meno audience, però, però vorrei osare tanto. Chissà questo... che capiti un giorno, sarebbe ora. Sarà molto difficile. Va bene, grazie. Comunque Caterina. Carlo Conti è bravo. Va bene, grazie, auguri. Grazie mille. Mix 24. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. Siamo al Controfestival. Vai. Ma lo sai perché? Perché oggi la metropolitana avanzava portando i pendolari indietro nei decenni. Ognuno incontrava se stesso e ritrovandosi ciascuno faceva l'incontro con ciò che fu ormai perduto, e tutto quello che si perde nei malintesi, nell'abitudine, nel tempo perso, e a colpi di perché, dice il filosofo che stava lì a spiegare a tutti attoniti, sbalorditi di ritrovarsi indietro nei decenni, a colpi di perché si uccide la felicità. E quindi c'erano amanti che non vedevano altro che i loro cuori incendiarsi, ma nel passato, nel nascondersi nel tempo, dove il filosofo dice si potrà ancora guardare e sorridere e catturare quella pioggia che regala gocce che diventano perle, perché certo nella terra peggiore sorge sempre il grano migliore. Siamo senza parole, Mario. Vai con le tue bollette. Io sono intimidito. Intimidito. Come noto, sono ce molto... la fai? Non so se ce la vai fai. Vai con le vediamo. Bolle. Bolle! Ciao! Ciao! Andiamo bene! Bambina! Un bacio ancora! Siamo nella leggenda. Leggenda. Ciao, ciao bambina, che poi è piove. Piove. Secondo enorme successo del Mimmo Nazionale, Domenico Modugno, 1959. Ok, detto questo... Siamo in pieno clima di Sanremo. Detto questo, nel mondo succede una cosa incredibile, perché sì, ciao, ciao bambina, ma soprattutto piove. E piove dove? Piove in Grecia, piove in Ucraina. E il destino è veramente, come dire, ironico, curioso, sì. Perché in una giornata sola, non dico che si decida tutto, però c'è quello che si dice un turning point. Si stringono point, i tempi. No? Un punto di svolta, esatto. A Minsk, per decidere se la guerra in Ucraina, se la certo. guerricciola in Ucraina deve diventare una guerra vera, e cioè certo. una guerra, poi diciamoci la verità, tra Stati Uniti e Russia. E insomma, tra Bruxelles e Atene, invece, per decidere che fare del debito certo. della Grecia. è molto interessante, perché sono i giganti del tempo che tornano, che si muovono. C'era un'illusione di una moneta che potesse tenere insieme le nazioni senza la politica, ed è svanita. E c'era l'idea che la storia fosse finita, ricorderete tutti Fukuyama quando crollò il muro, e che la grande madre Russia fosse scomparsa per sempre, lasciando il monopolio della forza all'America. Non è così. In ogni caso... Per chi racconta, per quelli come noi e per chi ama vivere queste cose, sarà una grande giornata. Certo. Salamino! Salamini di ricotta. Dunque no, mi avventuro in un campo minato. Allora, domande. Qual è la differenza tra libertina, escort e prostituta? Qual è la differenza? Perché si verifica anche il caso di una donna che non si fa pagare, ma qualche volta sì, perché la vicenda la eccita. Sto raccontandovi di Dominique Strauss-Kahn, che ha deposto al processo contro di lui in Francia. È un uomo di mondo, mani in tasca. Spiega cos'è il libertinaggio. Il mondo, e così il giudice, non capisce cosa sia tutta questa ricotta, perché in tribunale vale il codice penale, non quello morale, però l'atmosfera muta. E quando parla lui, racconta momenti festivi e... Poi, siccome era pur sempre il probabile futuro presidente della Repubblica Francese, l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale aveva tanti amici, ma con flemma rassegnata, con noia educata, perdendo tempo, denaro e reputazione, spiega che l'orgia altro non è che un momento ricreativo condiviso. Le due prostitute, interrogate, hanno parlato invece di brutalità e di scene animalesche. E poi uno dice: la tavernetta, il sambitter, delle cene eleganti, il bunga bunga, perché insomma il paragone si fa, ma è capitato spesso, ha detto Strauss-Kahn, che le donne si offrissero a me, perché più che un satiro lui è un verro, ma il paragone col bunga bunga incombe. E da questa atmosfera si va a quest'altra. Questi francesi sempre ad andarci addosso. Dai Mario con la bolla, veloce. Vai. Dimmi quando tu verrai. Bello. Tony Renis, testo di Alberto Testa e musica di Tony Renis. Ricordi, prego, quando disse: io ho sempre avuto amici delinquenti, ma c'è quando fece quel suo Sanremo. Bei tempi, grande musica. E vabbè, quando noi raggiungeremo la modica cifra di 700 miliardi di capitalizzazione raggiunti da Apple, non lo so, forse mai, sicuramente è un record per Wall Street, l'azienda tornerà a investire anche in altri settori, nel solare. Mi ricordo un po' la Standard Oil, che no, i monopoli, certo, gli oligopoli, insomma c'è una grande discussione aperta su questo. Però c'è anche una differenza: chi sa scrivere software può anche creare una storia di grande successo. Dall'altra parte invece mi pare un po' più difficile perforare, raffinare, distribuire i vertici sono stati toccati. Sì. Mix 24. Mario, ancora una bolla. Sì, è sempre grandi voci, vai. Come saprei capire l'uomo che sei? Secondo Salami. Come saprei, ragazzi, Giorgia, Giovanni, fantastica, quanto ti piace? Da morire. È fantastica. E te piace Giorgia Pietrangelo? No, ma lui ce n'è una che ti piace di più. Una piace ancora meglio. Ora arriva. Ora non so arriva. Che cosa avete vai, combinato. Senti. Nel profondo. Ok, va bene. Solo per dirvi questo, che il grande crollo del petrolio, lo chiamano il big drop, ha delle conseguenze inattese. Molti dei nostri ascoltatori conoscono la storia di Tesla, è una grandissima azienda, stupenda, che produce automobili di nuova generazione, elettriche, sono auto veramente speciali. L'azienda è stata fondata da Elon Musk, che è un genio della Silicon Valley, però dovrà licenziare qualcuno dei suoi bravi esperti del marketing e così via, perché il crollo del prezzo del petrolio ha anche diminuito le vendite delle sue auto elettriche. Aveva un target per venderne 5.000 in Cina, pare che andrà sotto, vediamo. Insomma, il petrolio basso sono tempi duri. Sta creando molti problemi. Sta creando molti problemi inattesi. Sì. Sono le conseguenze involontarie. Involontarie, Salamino. Come saprei? Ma che? Ve l'avevo detto, avrei portato una voce ancora migliore rispetto a questa della signora Giorgia. Allora, Giovanni, ma lo sai che Mario Sechi canta meglio? E quindi cedo il mio salamino offrendovi l'esecuzione di questa canzone. Ma cosa hai fatto? Canta Mario, no, vai. Non ci penso minimamente. Dai, Mario. Canta tu. No, io non posso. Lo vuoi cantare? Non posso. Vabbè, allora, mi vergogno salamino tanto. Boom delle partite IVA! Allora, più 200%. Nel corso del 2014 ne sono state aperte 574.000. A dicembre appunto il botto, più del 200%. Io queste cose di economia non è che le capisca tanto, mi faccio aiutare da Mario Sechi che riesce a dare la giusta lettura, però a naso l'idea che siano aumentate le partite IVA, e siccome qualche mese fa ho letto una copertina del Manifesto dove spiegava che le partite IVA altro non sono adesso che il nuovo proletariato, non mi fa festeggiare col governo, ma penso che sia tutto il contrario, e cioè che tutto questo boom altro non è che il conclamato precariato. E pertanto, giusto per dare una delicatezza di nostalgia, mando in onda questo pezzo. Se potessi avere mille lire al mese. Sta cantando. Senza esagerare. Canta, canta. No. Devo prendere lezioni. Professor Simonelli, canta anche lei di questo Sanremo, ecco. Che ci dice? L'unica cosa, non fatemi cantare perché sono stonatissimo. Che ci dice di questo Sanremo? Ma non male, veloce, no, veloce, colorato, peccato che qualcuno abbia stonato, questa è la mia rima. Fantastica, professore. Allora, un buon ritmo, pochi salamelecchi, pochi complimenti come è capace di fare Carlo Conti, che ha dato un bel ritmo alla trasmissione. Molto colorato, non so se avete notato, prima ho sentito dei grandi che parlavano di Sanremo, io parlo solo di televisione, certo. Molti colori, pop nel senso proprio della pop art, questo mi è piaciuto molto. Sì. Ma la regia le piaceva? Sì, proprio sì. Su questo ho trovato un festival nuovo rispetto al passato e quindi so. Ma lei poi è successo il patatrac, perché cioè? A Sanremo io, che non sono Maffucci, che è un grande, però qualche esperienza, non bisogna mai portare i comici, perché i comici interrompono il ritmo e invece che ravvivare, imbarazzano, perché oggi ci sono già polemiche su una battuta di Siani, ma il vero problema di Siani è che era lui imbarazzato, quando in mezzo a una situazione in cui si canta, e il canto è comunque divertente, piacevole, arriva uno che fa un monologo, questo inevitabilmente stona, anche se non dice sciocchezze. Siani aspettava l'applauso, aspettava che la gente ridesse e non rideva, ma questo succede a tutti. È successo 2 anni fa a Crozza, poi si è riversata la cosa sul piano politico, ma il problema non è politico. È di ritmi di spettacolo. Benigni, che come sa Buttafuoco è un grande genio, ha capito questa cosa e le ultime volte che è andato a Sanremo non ha fatto il comico, ha fatto altro. Certo. E allora ha fatto il trombone. Comici, andremo meglio. Grandissimo. Poi, insomma, qualche problema narrativo, come ha sottolineato Maffucci. Successo, successo di ascolto, scommettere. E questo tra 5 minuti... Lo so bene. Io dico, facciamo una scommessa. Sì. Non ha chiesto il 38. 38, 40? 40, via. 40. Scommettiamo, facciamo una scommessa. Va bene, diciamo, io dico 41. Tu Mario quanto dici? È un alto, alto. Alto non è un numero. No, non ho idea. L'auditel è una cosa un po' va bene, tu esoterica. Non vuoi. Sì, dimmi. Dimmi, ma Mario di economia, però i numeri non li dà. Tu no, non quelli, perché i numeri dell'Auditel sono. È un gran furbacchione. Sono difficili. Lui oramai smanetta soltanto. Sono quelli della rete, rete sono interessanti. Cioè, numeri della rete dice che sono interessantissimi, sì. Però non ce li dà perché ci sarà una conferenza stampa. No, ma te li do. In anteprima per minori. My Second Screen, che è un'applicazione che noi abbiamo sviluppato con la nostra società, sono 500.000 interazioni, oltre 200.000 utenti univoci, 40.000 utenti che partecipano attivamente, sono per il web italiano sono numeri tantissimo. Molto grandi. Bene, sì. Oggi ricordiamo la strage delle foibe compiuta dall'esercito comunista di Tito tra il 43 e il 45. A parlarcene è un sopravvissuto di quella tragedia, Graziano Udovisi. Quest'uomo venne vicino a me e cominciò subito a mani libere a picchiarmi. Ad un tratto sentì una voce urlare, maledetti in piedi. Aprendo per quanto mi era possibile gli occhi, guardai gli altri e vidi delle schiene come fossero dipinte di rosso. Era sangue, sangue vivo che sgorgava ancora. Dopodiché ci fecero avanzare, ci portarono fuori da questa che considero una ex caserma e ci fecero attraversare la strada. Arrivò quasi un ordine liberatorio, alt, ferma. Rimanemmo lì ansanti, storditi, in piedi. Non so perché, mi guardai attorno, quasi non vidi nulla. Ma poi, abituati gli occhi, ecco lì una fossa, una buca grande, enorme. E capì dove eravamo. Dopo il giornale radio, Marina Milone racconta la storia delle foibe e intervista l'autore di questa storia, il giornalista Marco Dolcetta.